presso di te è il perdono perché tu sia tenuto. Salmo 130, 4. L'uomo è una creatura che trascorre la sua esistenza in una condizione di continua paura. Abbiamo paura dei doveri della vita, degli obblighi e delle responsabilità familiari, di una catastrofe, dell'incertezza dell'avvenire, di una malattia incurabile, che la nostra reputazione sia messa in gioco, del giudizio della società, della morte. E questo è il motivo per cui sono sorti gli amuleti. I portafortuna, la negromanzia, l'astrologia, gli oroscopi. Si cerca di cancellare la sensazione di pericolo che ci perseguita. Presi in questo ingranaggio infernale, si finisce con l'aver paura di aver paura, e alcuni non trovano altra soluzione che il suicidio. E, in questo contesto che si colloca il tema del timore di Yahweh, dell'Eterno, esso è uno dei grandi soggetti della Scrittura. Dalla Genesi fino all'Apocalisse Dio ingiunge all'uomo di temerlo. Ecco alcune ingiunzioni. Ricordati del giorno che comparisti davanti a Yahweh, al tuo Dio, in Horeb, quando Yahweh mi disse: radunami il popolo, e io farò loro udire le mie parole, perché essi imparino a temermi tutto il tempo che vivranno sulla terra, e le insegnino ai loro figli. Deuteronomio 4 e 10. Un figlio onora suo padre e un servo il suo padrone. Se dunque io sono padre, dove è l'onore che man è dovuto? Se sono padrone, dove è il timore che mi è dovuto? Malachia 1, 6. Chi non temerà, o Signore, e chi non glorificherà il tuo nome? Apocalisse 15, 4. Niente di più ovvio quindi che il cristiano debba avere il timore di Dio, ma che cos è questo? Timore dell'Eterno. È doveroso rispondere a questa domanda perché si corre il pericolo di parlare di un argomento e di essere fraintesi. Il dizionario Devotooli definisce così il timore: lo stato d'animo ansioso o sospettoso di chi considera la possibilità di un evento dannoso, doloroso o comunque spiacevole. Il timore, secondo la definizione della lingua italiana, ha a che fare con i nostri sentimenti. Infatti, i sinonimi sono apprensione, dubbio, preoccupazione, ansia. Si direbbe quindi che il timore dell'Eterno sia uno stato d'animo di apprensione che una persona debba avere nei confronti di Dio. In effetti questa è l'opinione dei più. Ma il dizionario si riferisce anche al timore di Dio con questi termini: la reverenza dovuta a Dio in conseguenza del rapporto di filiazione. La reverenza è la stima, il rispetto, la devozione. In rapporto a Dio, il timore dell'Eterno consisterebbe comunque un atteggiamento positivo, uno stato d'animo. Ma è proprio questo, il timore, che si deve avere dell'Eterno? La domanda è più che legittima, perché i termini biblici non sempre concordano e si possono definire correttamente ricorrendo al dizionario. Per esempio, nel libro degli Atti al capitolo 13 leggiamo che ad Antiochia vi erano dei profeti e dei dottori. Secondo il linguaggio corrente, i dottori sono medici, coloro che curano le persone ammalate. Invece, nel linguaggio biblico, con la parola dottore si intende colui che conosce bene la parola di Dio e la insegna. Così, per comprendere correttamente la parola timore, dobbiamo considerare come nella Bibbia esso viene definito. Spieghiamo in definitiva i termini della Bibbia con la Bibbia stessa. Il timore di Yahweh è odiare il male. Proverbi 8 e 13. Il timore di Yahweh è puro, sussiste per sempre. Salmo 19, 9. Il timore di Yahweh è il principio della scienza. Proverbi 1, 7. Queste definizioni bibliche in relazione al timore dell'Eterno non spiegano come si manifesta il timore, o chi avesse il timore di Dio, ma rivelano in che cosa consiste il timore dell'Eterno. Da quanto leggiamo possiamo trarne le seguenti riflessioni. A. Il timore dell'Eterno, innanzitutto, non è UNS, Nuovo Testamento, IM e Nuovo Testamento. Non ha a che fare con uno ST, Antico Testamento d'Animo, MA è una condotta, un modo di comportarsi. Cioè odiare il male, e per odio non si intende un sentimento di avversione, ma il rifiuto di ciò che è male. E da notare che la parola di Dio considera il timore dell'Eterno non come una condotta al positivo, ma al negativo. In effetti, la Scrittura non mette solo in risalto che il timore di Dio consiste nel fare il bene, ma, nel versetto citato, esso consiste nell'avere avversione per il male. Questo aspetto è importante perché a volte la volontà di Dio combacia con la nostra, per cui non sempre riusciamo a comprendere se facciamo la volontà di Dio per obbedienza o se agiamo in base ai nostri principi morali. Questo discorso è indispensabile in un contesto di perbenismo, di moralismo nel quale la società tende a navigare. Molte persone religiose, amanti del bene e con uno spiccato senso di filantropia, sono ben disposte a compiere opere buone, ma non sono altrettante pronte ad odiare il male, cioè a rifiutare ciò che è sbagliato. E la ragione è semplice. Se sei una brava persona che compie opere di carità non particolarmente eclatanti, non sarai additato in una società con dei valori cristiani. Lo saresti invece in certe culture non fondate sulla morale cristiana. Anzi, tenendo un comportamento altruista sei anche considerato, stimato. Per compiere opere di carità, inoltre, non occorrono dei grossi e particolari principi morali. Altre religioni insegnano l'altruismo e l'apertura nei confronti di altre opinioni. Gli induisti hanno superato gli ateniesi dei tempi dell'Apostolo Paolo. Hanno 300 milioni di dei. Rifiutare il male significa invece prendere coraggiosamente una posizione, opporsi ai più, mettersi spesso contro la società, contro i parenti e a volte dolorosamente contro i tuoi familiari. Questo significa piantare grane, alzare barriere, incrinare relazioni alle quali si tiene. Ciò non è facile. Compiere un atto approvato da tutti non richiede grandi ideali, ma rifiutare l'errore comporta l'avere delle forti convinzioni per le quali sei disposto a soffrire. E soffrire, si sa, non piace a nessuno. Il timore dell'Eterno è molto più raro di qua Nuovo Testamento a non essere i pensi. Quando si tratta di fare una manifestazione a favore della pace degli immigrati perché abbiano migliore assistenza sociale e sanitaria, troviamo tra i manifestanti gente di ogni estrazione sociale, politica e religiosa. Quando si tratta di pregare per l'unità dei cristiani o compiere opere di solidarietà, troviamo cattolici e protestanti, che sono da secoli nemici e inconciliabili, fianco a fianco. Ma se voi rifiutate di pregare Maria specialmente nel mese di maggio, se rifiutate di accettare il Papa come capo della cristianità, se non accettate l'autorità della religione cattolica romana, allora sono dolori amari. Se poi avete il coraggio di denunciare pubblicamente le invenzioni religiose del cattolicesimo romano, molto probabilmente avete sottoscritto una condanna a morte, al presente solo sociale. La situazione non è molto diversa per chi vive una vita di chiesa. Se si chiude un occhio nei confronti di un fratello che deve essere ripreso, riscuoti l'approvazione della maggioranza. I tuoi sforzi sono considerati positivi anche quando hai peccato di omissione di atti dovuti. Se invece ritieni opportuno agire con fermezza per il bene del fratello e per la chiesa, sarai segnato nel registro nero. Se la Chiesa decide all'unanimità una certa linea e tu vedi che l'indirizzo è sbagliato, e taci, acconsenti, non disapprovi, le acque torbide rimangono ferme. Se coraggiosamente fai notare l'errore, sei ritenuto un sovversivo che non cerca la pace. Ho compreso maggiormente questa verità in un fatto accaduto nel mio palazzo. Un inquilino da tempo lasciava che la sua auto facesse delle grandi macchie nere di olio nel cortile, che lasciavano disgustati tutto il condominio. Quando mia moglie ne parlava con gli altri condomini, esprimeva una forte indignazione ed una aperta disapprovazione per il comportamento di quell'inquilino. Un giorno, dopo lunga riflessione, confidai a mia moglie che desideravo esprimere a costui il mio biasimo. La risposta di mia moglie fu veloce, istintiva, tanto da lasciarmi di stucco. Non piantare delle grane. Eccezionale. Ero io, che piantavo delle grane, solo perché desideravo risolvere un problema che dava fastidio a tutti. Certo, non è lecito esprimere sempre sconsideratamente la propria opinione o disapprovazione. Ma quando se si è mossi da carità e spirito di pace, il tacere ci fa essere complici del male. Il timore del tiendia eterno consiste avere dunque anche il coraggio di andare controcorrente quando si tratta di proclamare la verità. Temo che saranno sempre pochi coloro che avranno un simile comportamento. B. Il timore dell'Eterno è anche puro. Ciò significa che la condotta di chi teme il Dio è sempre santa, cioè secondo i parametri morali stabiliti da Dio. Anche questo aspetto è importante. Si invita spesso l'uomo ad amare Dio come se l'amore fosse tutto. Quest'invito è forse influenzato dal concetto dell'amore che intercorre tra un uomo e una donna. Quando due si amano tutto è lecito. Non importa quello che pensano gli altri, oppure Dio, se due si amano è giusto che facciano sesso. Mi ha colpito un poster relativo all'AIDS, l'unica loro colpa è stata di amarsi. Tutto il resto era lecito. Ma l'uomo timorato di Dio ha un'etica morale della quale può anche non esserne necessariamente convinto, ma l'osserva perché lo ha detto Dio. Quando leggiamo in Proverbi 15 e 16, meglio poco col timor di Yahweh che un gran tesoro con preoccupazioni, si tratta di crederci oppure no. Negli affari e nella vita devo essere onesto non tanto per considerazioni di tornaconto ma per fede. Che tipo di fede? Fede che è meglio avere poco, se questo è il risultato del timore di Dio, che grandi entrate e avere una vita piena di preoccupazioni, di affanni, senza fede nelle promesse di Dio. Nessuno di noi sceglierà il poco. E così, se non dico menzogne, ciò non è dovuto al fatto che sono convinto che non bisogna mai dirle, ma perché questa è la volontà di Dio. Ogni giorno abbiamo dei contrasti tra la nostra inclinazione morale e gli assoluti di Dio. Colui che teme Dio adeguerà il suo cammino alla sua volontà e lascerà i risultati del suo operato nelle mani di Dio. C. Il timore di Dio è indispensabile per capire i suoi pensieri. Dobbiamo abbandonare l'idea che il timore di Dio sia una caratteristica che riceviamo gratuitamente con la conversione, che sia comune come la margherita in primavera. Non dobbiamo dimenticare che fin dalla nascita nessuno di noi ha il timore di Dio. Questo è il quadro che ne fa Paolo in Romani 3:9-18, riportando le parole di alcuni salmi. Abbiamo già dimostrato che tutti, giudei e greci, sono sottomessi al peccato, com è scritto, non c'è e nessun giusto, neppure uno, non c'è e nessuno che capisca, non c'è e nessuno che cerchi Dio. Tutti si sono sviati, tutti quanti si sono corrotti, non c'è e nessuno che pratichi la bontà, no, neppure uno. La loro gola è un sepolcro aperto, con le loro lingue hanno tramato frode, sotto le loro labbra c'è è un veleno di serpenti, la loro bocca è piena di maledizione e di amarezza, i loro piedi sono veloci a spargere il sangue, rovina e calamità sono sul loro cammino e non conoscono la via della pace, non chi è timor di Dio davanti ai loro occhi. Nessuno di noi pensi di scampare a questo giudizio. Credenti o no, salvati o perduti, abbiamo una natura incline al male, corrotta. L'esempio della tecnologia può aiutarci a comprendere il senso della corruttibilità dell'uomo. All'inizio, l'uomo creò un computer. Il mondo era entusiasta di questa invenzione e ben presto divenne uno strumento indispensabile. Ma ci fu qualcuno che, essendo invidioso, assetato di denaro, desiderava rendere difficile l'uso del computer. Così creò i virus e li trasmise al computer. Da quel giorno, i computer infettati cominciarono a non aver sempre delle funzioni giuste e impazzirono. La stessa sorte è toccata all'uomo. Dio lo ha creato giusto e retto, volto al bene, ma dopo la disubbidienza è entrato in lui un virus che lo fa sragionare e impazzire. Lo rende incapace di connettere ragionevolmente i suoi pensieri. Ciò che è bene è diventato male, ciò che è male è considerato bene. L'uomo è incapace di avere il timore di Dio. Come poter ottenere dunque questo timore di Dio? Leggiamo in Proverbi 2, 1 a 5. Uno figlio mio, se ricevi le mie parole e servi con cura i miei comandamenti. Due, prestando orecchio alla saggezza e inclinando il cuore all'intelligenza. Tre, sì, se chiami il discernimento e rivolgi la tua voce all'intelligenza. Quattro, se la cerchi come l'argento e ti dai a scavarla come un tesoro. Cinque, allora comprenderai il timore di Yahweh e troverai la scienza di Dio. Sei, Yahweh infatti dà la saggezza, dalla sua bocca provengono la scienza e l'intelligenza. Come ogni cosa preziosa anche il chi si lamenta perché Dio non gli ha dato un cuore per temerlo, consideri i tre sé di questo brano. E i relativi verbi: ricevere, serbare, prestare, inclinare, chiamare, rivolgere, cercare, scavare. Il timore di Dio si acquista mediante delle azioni, non con degli aggettivi. Sì, perché in ogni fatica c'è è profitto, ma il chiacchierare procura la miseria. Proverbi 14 e 23. Il timore come paura, Spave Nuovo Testamento o. Se il timore di Dio consiste nel cammino di santità che l'uomo tenere e avere nei confronti di Dio, esso non esclude però che possa indicare anche ciò o colui che deve essere temuto, di cui si deve avere paura o terrore. Proprio per questo il timore di Dio è quindi il motivo essenziale dell'ubbidienza. Questo aspetto è il più facile da comprendere, perché l'uomo per natura ha paura della divinità alla quale si rivolge, vera o falsa che sia. La paura è talmente comune che si dimentica che essa è la conseguenza del peccato. Quando Adamo ed Eva trasgredirono, ebbero paura e si nascosero da Yahweh. Da allora l'uomo ha sempre avuto paura della deità. Proprio per questo stato d'animo, Dio invita i suoi a non avere paura. Dopo questi fatti, la parola degli Yahweh fu rivolta in visione ad Abramo, dicendo: «Non temere, Abramo, io sono il tuo scudo, e la tua ricompensa sarà grandissima». Genesi 15, 1. Questa paura innata dell'uomo verso il suo Creatore è stata spezzata con la venuta di Gesù Cristo e dal messaggio dell'Evangelo. Molte cose sono state dette in relazione al contenuto del messaggio evangelico. Noi esamineremo tre verità basilari che lo costituiscono. 1. Si riferisce a Gesù Cristo. 2. L'uomo è separato e sotto il giudizio di Dio. 3. Gesù Cristo ha riconciliato l'uomo a Dio. Ecco come Paolo ha sintetizzato il messaggio evangelico in 2 Corinzi 5, 17 e 20. Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura, le cose vecchie sono passate, ecco, sono diventate nuove. E tutto questo viene da Dio che ci ha riconciliati con sé per mezzo di Cristo, che ci ha affidato il ministero della riconciliazione. Infatti Dio era in Cristo nel riconciliare con sé il mondo, non imputando agli uomini le loro colpe, e ha messo in noi la parola della riconciliazione. Noi dunque facciamo da ambasciatori per Cristo, come se Dio esortasse per mezzo nostro. Vi supplichiamo nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Il messaggio evangelico è quindi una notizia che suscita pace e fiducia in Dio. Per chi accetta l'Evangelo, l'aspetto della paura di Dio viene automaticamente demolito, perché subentra un rapporto con un Dio paterno, amorevole. Nell'amore non c'è, è paura, anzi. L'amore perfetto caccia via la paura, perché chi ha paura teme un castigo. Quindi chi ha paura non è perfetto nell'amore. 1 Giovanni 4 e 18. E, pertanto, giusto che il credente si avvicini a Dio senza paura. Ma, come spesso succede, a volte egli dimentica che deve anche avere un santo timore, una santa paura, come ricordano più volte gli apostoli. Adoperatevi al compimento della vostra salvezza con timore e tremore. Filippesi 2 e 12. Perciò, ricevendo un regno che non può essere scosso, siamo riconoscenti e offriamo a Dio un culto gradito, con riverenza e timore, perché il nostro Dio è anche un fuoco consumante. Ebrei 12, 28-29. Poiché abbiamo queste promesse, carissimi, purifichiamoci da ogni contaminazione di carne e di spirito, compiendo la nostra santificazione nel timore di Dio. 2 Corinzi 7, 1. L'invito è chiaro. l'atteggiamento fondamentale del credente deve essere costituito dall'amore e dal timore di Dio. L'amore di Dio lo avvicina a Lui, la paura lo costringe alla santità. Questa tensione e contrasto è il motivo e motore per vivere santamente e temperatamente una vita che glorifichi il Salvatore. Come disse un filosofo francese, nessun uomo è forte se non porta nel proprio carattere antitesi fortemente marcate. Sono pochi coloro che raggiungono questo equilibrio di opposti. Colui che esalta solo l'amore di Dio di solito è un sentimentale. Chi considera solo la necessità di avere timore di Dio è un legalista. Raramente coloro che sono innamorati dell'amore di Dio sono legalisti. E coloro che sono legalisti raramente sanno amare. Gesù ha riconosciuto la necessità di una fusione di opposti. Egli ha invitato i suoi discepoli a rivolgersi a Dio e chiamandolo Padre, come ha ordinato di temere Dio sopra ogni cosa. E non temete coloro che uccidono il corpo ma non possono uccidere l'anima. Temete piuttosto colui che può far perire l'anima e il corpo nella Geenna. Matteo 10:28. È veramente difficile immaginare una persona che provi simultaneamente pace e paura, fiducia e incertezza. Eppure questi è il cristiano. Egli è sicuro di appartenere a Cristo, ma altresì la sua sicurezza non è certa fino al termine della sua vita. Egli è salvato, ma deve lottare e servire per non comparire pieno di vergogna davanti a Cristo. 1 Giovanni 2:28. E è stato salvato mediante la fede, ma senza le opere non può dimostrare di essere salvato. E certo che Dio lo ama, ma questa non è una garanzia per possa evitargli prove e dolori. Per lui è preparato un luogo di felicità, ma intanto sulla terra è chiamato a soffrire. I santi contrasti sono l'equilibrio di Dio. Il timore di Dio, oltre ad essere giusto e doveroso, produce nel credente un positivo frutto di giustizia. Esso è l'antidoto migliore contro il timore degli uomini. Chi teme Dio è liberato dal timore di essere disprezzato e disonorato dai parenti e dal prossimo. L'invito della Scrittura è pressante. E non temete coloro che uccidono il corpo, ma non possono uccidere l'anima. Temete piuttosto colui che può far perire l'anima e il corpo nella Geenna. Matteo 10:28. Soltanto comportatevi in modo degno del Vangelo di Cristo affinché sia che io venga a vedervi, sia che io resti lontano, senta dire di voi che state fermi in uno stesso spirito, combattendo insieme con un medesimo animo per la fede del Vangelo, per nulla spaventati dagli avversari. Questo per loro è una prova evidente di perdizione, ma per voi di salvezza. E ciò da parte di Dio. Filippesi 1:28-29. Chi vi farà del male, se siete zelanti nel bene? Se poi doveste soffrire per la giustizia, beati voi. Non vi sgomenti la paura che incutono e non vi agitate, ma glorificate il Cristo come Signore nei vostri cuori. Siate sempre pronti a render conto della speranza che è in voi, a tutti quelli che vi chiedono spiegazioni. 1 Pietro 3:13-15. Questi versetti non devono essere letti solo per conoscere meglio la Scrittura, ma devono essere messi in pratica. Vi sono delle anime che hanno affidato la loro vita a Cristo, ma sono incapaci di subire l'onta o l'adesione dei loro cari e del prossimo. Amano Cristo perché li ha salvati, ma non seguono il loro Salvatore nel disprezzo e nella derisione. Amano il Cristo della croce, ma non la croce di Cristo. Ma scegliere solo il Cristo della croce può essere dovuto ad un fattore emotivo, un atteggiamento diabolico comune a chi è mosso solo spinto dai sentimenti. Gesù disse a Pietro che non voleva che egli soffrisse. Vattene via da me, Satana, tu mi sei di scandalo. Tu non hai il senso delle cose di Dio, ma delle cose degli uomini. Matteo 16:23. Pietro aveva accettato il Cristo, ma non la sua croce. Con ciò non intendo sostenere che tutti coloro che hanno creduto in Cristo e si vergognano della loro fede non siano sinceri, perché anche al tempo di Gesù alcuni avevano creduto e si vergognavano della loro fede. Ma la sentenza di Dio è comunque sempre pesante. Ciò nonostante, molti, anche tra i capi, credettero in lui, ma a causa dei farisei non lo confessavano, per non essere espulsi dalla sinagoga, perché preferirono la gloria degli uomini alla gloria di Dio. Giovanni mezzogiorno e 42. Che Dio ci dia di scegliere deliberatamente il rigetto degli uomini per essere accettati da Dio in gloria, paura e riconoscenza. Il Dio della Bibbia, Yahweh, si presenta come un Dio vendicatore, Naum 1:2, che non lascia impunito il colpevole, Esodo 34:7. Come cristiani non dobbiamo tremare di fronte all'ira di Dio e alla sua giustizia, ma avendo conosciuto l'amore di Dio e sapendo che non si ricorderà più dei nostri peccati, non può non sorgere in noi il desiderio di avere e mantenere nel nostro cuore un santo timore che è composto di tre elementi. 1. Dobbiamo avere paura della sua riprensione e della sua disapprovazione, allo stesso modo di un figlio nei confronti del padre. È utopia credere che basti l'ordine di amare per spingere gli uomini ad ubbidire a Dio. La nostra natura malvagia e insanabilmente maligna fa sì che abbiamo bisogno anche di una parte di paura suscitata dalle minacce di Dio. Chi non conosce e non accetta le minacce di Dio non vive una vita cristiana equilibrata. 2. Questa paura ci sprona anche a camminare nella Saea Nuovo Testamento, la quale ci spinge ad odiare il male, perché solo in questo modo possiamo conoscerlo sempre di più. Temere le tenebre più della luce, cioè temere le conseguenze che porta il male, più che le conseguenze che portano la fedeltà a Dio, cioè l'afflizione, la persecuzione, la fame, il pericolo, la morte. Romani 8:35. 3. Avendo conosciuto l'amore di Dio, noi lo amiamo, perché Egli ci ha amato antico testamentoi il primo. Solo un amore di riflesso a quello di Dio può essere il vero amore coniugato al giusto timore. L'autore della lettera agli Ebrei ha espresso molto bene la condotta della vita cristiana in una sola affermazione. Perciò, ricevendo il regno che non può essere scosso, mostriamo gratitudine, mediante la quale serviamo Dio in modo accettevole, con riverenza e timore, perché il nostro Dio è anche un fuoco consumante. Ebrei 12:28-29. Facciamo le seguenti riflessioni. Mostriamo gratitudine, il principio del timore di Dio. L'amore, la riconoscenza, la gratitudine sono proporzionati al perdono. Colui al quale poco è perdonato, poco ama. Non tutti coloro che sono salvati sono riconoscenti. Dei 10 lebbrosi, guariti da Gesù, uno solo andò da lui a ringraziarlo. Offriamo a Dio una vita di riconoscenza, anche seppur inadeguata, mediante la quale serviamo Dio, il mezzo per temere Dio. Si serve Dio per gratitudine, per essere stati amati e perdonati. Ogni altro modo di servire Dio diventa difettoso, puramente umano. In modo accettevole, il modo per temere Dio. Si serve Dio in modo da essere graditi, secondo i suoi parametri. Se uno lotta come atleta è coronato solo se ha lottato rispettando le regole. Con riverenza e timore, gli ingredienti del timore di Dio. Vi è un timore di Dio imitato. Isaia disse, il Signore ha detto, poiché questo popolo si avvicina a me con la bocca e mi onora con le labbra, mentre il suo cuore è lontano da me e il timore che ha di me non è altro che un comandamento imparato dagli uomini. Isaia 29:13. Una cieca obbedienza alla volontà di Dio non è sinonimo del timore che si deve avere di Dio, perché il nostro Dio è anche un fuoco consumante, la ragione del timore di Dio. Dio è colui che ha ci dato la vita e la può togliere. Dio è colui che dà il benessere e crea l'avversità. Dio è colui che può salvarti e lasciarti perduto per l'eternità. Un Dio così tremendo, Salmo 76:11, ci induce a prostrarsi davanti a Lui e ad adorarlo. Se siamo coscienti di questi aspetti e vivremo di conseguenza, onoreremo il nome di Dio con il giusto timore che gli è dovuto, perché vi è quel timore che non è altro che l'abbandono del ragionamento, e del quale dobbiamo guardarci, mentre vi è quel timore che con l'aiuto del ragionamento e della fede lo mantiene per servire Dio con timore e gioire con tremore. Salmo 2:11. Febbraio 1995. Ellero.